bella, ciao ciao ciao, una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasore, partigiano. Ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao, ciao.